Lettore di libri di Alessandra Tedesco. Well, your railroad gate, you know I just can't jump it. Sometimes it gets so hard, you see. Se vi dico Carlo Monterossi, autore televisivo, lo sapete dove voglio andare a parare, vero? Voglio andare a parare ai romanzi di Alessandro Robecchi, che ha creato appunto questo personaggio seriale ormai da alcuni anni. Ma attenzione, perché adesso c'è una sorpresa, perché nell'ultimo romanzo di Alessandro Robecchi, I cerchi nell'acqua, pubblicato come tutti gli altri da Sellerio, Monterossi c'è, ma solo in modo tangenziale, diciamo che compare all'inizio del romanzo e lui ascolta una storia che gli viene raccontata da uno degli altri due personaggi seriali dei romanzi di Robecchi, ossia dal sovrintendente di polizia Tarcisio Ghezzi. L'altro sovrintendente invece è Carella. Diciamo che in questa nuova puntata dei romanzi di Robecchi ci sono soprattutto Ghezzi e Carella, che però a loro volta non stanno seguendo insieme un caso, ma stanno agendo in modo, come dire, parallelo. Ognuno di due si sta occupando un po' di un caso privato, mettendosi anche inevitabilmente un po' nei guai. Allora, Alessandro Robecchi, partiamo subito con le domande difficili, sai, che insomma sono quelle che poi gli ascoltatori interessano. Come mai hai deciso di mettere leggermente da parte il tuo Monterossi per questo I cerchi nell'acqua? Dunque, la verità è che comanda sempre un po' la storia, e quindi questa volta la storia era un po' nera, un po' di bassi fondi, di piani molto molto bassi della Milano che io descrivo, e quindi il Monterossi, per una volta, avendo io tanti personaggi, è stato un po' in quinta, come si dice a teatro, perché non possono sempre stare tutti in primo piano, insomma. Però devo dire che, anche se ha un ruolo più laterale del solito, è un po' sempre lui che tiene in mano il dossier etico-morale della storia, e quindi a questa storia, confessione che gli fa il mio poliziotto Ghezzi, che è poi la storia del libro, fa poi tutte le sue riflessioni e analisi. Una cosa che volevo dire, anche per questo l'ho tenuto un po' discosto, e volevo dire della, a volte, totale e siderale distanza che c'è tra la vita delle persone ed alcuni ambienti che qui si descrivono nel libro. Quindi, insomma, a un certo punto Ghezzi gli dice: Monterossi, lei non ha idea di cosa c'è là fuori. Infatti glielo dice in modo molto netto, è una delle frasi che ho segnato di questo romanzo a pagina 21, perché il Ghezzi, insomma, gli fa un po' la morale, gli dice: che ne sa lei di quello che c'è là fuori, Monterossi? Parla di ingiustizie e di miserabili come se li avesse visti davvero, ma non è così. Lei ne fa caricature, Monterossi. Lei non sa davvero cosa c'è là fuori, cosa sono le vite in sospeso, le botte, le umiliazioni, la lotta incessante per la sopravvivenza. Insomma, allora Ghezzi sostanzialmente glielo dice chiaramente, non la manda a dire, è molto diretto con Monterossi. Sì, è molto diretto, perché riconosce in Monterossi quella parte della società che vive molto protetta, come a volte in quella plastica coi pallini, è presente, e allo stesso tempo volevo mettere il lettore davanti allo stesso sconcerto che prova il Monterossi, e che si chieda: ma insomma, c'è davvero questa società così sotterranea? Ci sono davvero questi miserabili? Anche perché, lo ricordiamo, Monterossi appunto è un autore televisivo, lavora per la cosiddetta grande fabbrica della merda, e quindi è abituato ad un mondo di grandissime falsità, ad un mondo di esagerazioni, ad un mondo di sentimenti spiattellati appunto davanti a tutti, anche se lui è molto critico da questo punto di vista, però effettivamente è quello il mondo al quale appartiene. Allora, venendo un po' alle storie di Ghezzi e di Carella, dicevamo che entrambi hanno a che fare con casi molto privati in questa puntata, chiamiamola così, delle loro avventure. Allora, il Ghezzi incontra nuovamente la Franca, che è una prostituta ormai arrivata come lui intorno ai 60 anni, che insomma lo cerca perché dice che il suo compagno, il Salina, sostanzialmente, che è anche il suo pappone, insomma non è esattamente uno stinco di santo, è scomparso scomparso lasciandole uno strano SMS in cui le dice: ho visto una cosa che non dovevo vedere. Ecco, e quindi chiede sostanzialmente a Gezi di indagare privatamente, non proprio come poliziotto. Questa è l'occasione anche per Gezi per fare un po' un tuffo nel passato, perché aveva incontrato questa prostituta, la Franca, proprio all'inizio della sua carriera ed era stato anche parecchio turbato da questo incontro. Un po' tentato, diciamo. Gezi mette in campo con questo, diciamo, avvenimento un po' fuori dalle norme, cioè una persona che gli chiede di fare un'indagine non ufficiale, che per lui è il poliziotto tutto d'un pezzo, è una cosa molto strana, ma incontra delle inaspettate nostalgie, perché questo Salina che lui cerca era stato il suo primo arresto 30 anni fa, perché appunto aveva avuto qualche turbamento per la sua donna, questa Franca, e insomma, senza sapere bene lui nemmeno perché, si mette a fare questa indagine, un po' per fare un piacere alla Franca, ma un po' anche per se stesso, per capire dove sono finiti quei 30 anni di onorato servizio che lo separano dal suo primo arresto. Gli sembra che siano volati via in 10 minuti, e questo, siccome Gezi poi non è uno da nostalgie, lo sorprende molto, ecco. Però ho notato che, insomma, negli ultimi libri Gezi ogni tanto cede alla tenerezza. Sì, è quello che succede alle brave persone, anche quando vogliono tentare di fare i duri, mentre Carelli invece è un duro vero che non cederebbe mai alla tenerezza. Invece Gezi, sì, Gezi è uno che capisce gli altri, anche i delinquenti, quindi anche per prenderli, e questo un po' lo aiuta. Carella dice di lui che Gezi si comporta con i delinquenti come un prete con i suoi peccatori. Ecco, forse Carella esagera un po', ma non ci va lontanissimo. Ecco, sicuramente fra i due è quello che ha l'aspetto più umano. Carella, come dicevi giustamente tu, è veramente il duro, e devo dire che in questo romanzo si va a cacciare in situazioni non esattamente limpide. All'inizio del romanzo vediamo che Carella aspetta fuori dal carcere di Bollate vicino Milano l'uscita di un uomo che ha passato circa 5 anni in carcere, tale Alessio Vinciguerra. Si capisce fin dall'inizio, ora non scendiamo troppo nei dettagli, che Carella ha una sorta di conto in sospeso con questo Vinciguerra, ma non tanto per ragioni personali, per un più alto senso proprio della giustizia. È questo che lo muove? Sì, sono molte cose che lo muovono. Una di quelle è sicuramente il senso di giustizia. Questo Vinciguerra ha fatto meno anni di quelli che si meritava, è riuscito a scavarsela malamente nel processo, insomma non l'ha pagata tutta, ecco, diciamolo così. E quindi Carella, già questo possiamo capire, lo manda ai matti. In più c'è anche una piccola questione personale di Carella, che ha conosciuto e giurato di proteggere una persona a cui questo Vinciguerra potrebbe fare male. E però, ahimè, proprio per questa storia Carella si trova a essere uno di quei cerchi nell'acqua del titolo, perché i cerchi nell'acqua sta a significare, sai, quando tiri un sassolino nell'acqua ferma che si fanno tutti quei cerchi concentrici. Ecco, il delitto è la stessa cosa, crea dei cerchi concentrici di dolore che non si appianano e che sono infiniti potenzialmente, no? E questa volta Carella si trova a essere lui stesso uno di quei cerchi nell'acqua, e questo fa in modo che si comporti in modo non commendevole, ecco. Ecco, anche perché abbiamo detto, sia Gezi che Carella stanno seguendo questi casi in veste assolutamente privata, i capi non sanno nulla, Carella addirittura si è preso le ferie, cosa che non ha praticamente quasi mai fatto in tutta la sua carriera. E tant'è vero che a un certo punto, insomma, il capo Gregori inizia a sospettare che ci sia qualcosa di strano, dice: beh, o sta lavorando appunto a un caso in maniera privata e già non va bene, oppure ancora peggio, si è sporcato, perché insomma capiscono che ha a che fare con bische clandestine. Sì, c'è un po' questa cosa, perché Carella naturalmente per inseguire il suo cattivo deve fingere di essere un cattivo a sua volta, e questo fa in modo che giri con un macchinone, che spenda dei soldi in modo assurdo, tipo nelle bische, per infiltrarsi, diciamo così, in un ambiente di delinquenti. E naturalmente a Gezi non lo sfiora nemmeno per un secondo che Carella sia sporco, però Gregori, che è un vecchio volpone, e non a caso è il capo, dice sai quelle voci lì poi ti rimangono appiccicate per sempre. Insomma, a un certo punto viene chiesto a Ghezzi di fare un'indagine sul suo amico e quindi la cosa diventa complicata anche dal punto di vista emotivo, povero Ghezzi. E sì, infatti, perché Ghezzi deve indagare su Carella, però è sempre molto rispettoso, per esempio non lo chiama al telefono, non gli dice che cosa ti sta accadendo. C'è quasi una sorta di pudore nel rapporto fra Ghezzi e Carella, ma che cos'è, la divisa che crea questo appunto pudore e rispetto, o è una questione caratteriale? Ma è un pasto strano, sai, perché anch'io me lo sono chiesto, perché un po' è la divisa forse, però io credo che sia una di quelle forme di amicizia non ostentate e quindi forse per questo anche più vere. A un certo punto Ghezzi dice forse è questo che bisogna fare nella vita, fare quello che si può ed essere amici. Ecco, credo che sia anche una cosa di amicizia vera, non quelle chiacchierate, non quelle amicizie che bisogna ribadire a parole, ma insomma quelle amicizie che si fanno coi silenzi e coi fatti. Ecco, siccome però Alessandro Robecchi non si accontenta di far seguire al lettore due storie parallele, il caso di Ghezzi, il caso di Carella, c'è anche un terzo caso, quello diciamo che la polizia segue ufficialmente, e che è l'uccisione di un antiquario, tale Crodi, che è stato picchiato a morte, trovato morto nel suo laboratorio. E qui devo dire che Robecchi torna a mettere un po' gli aspetti della critica sociale che aveva fatto in modo eclatante nel penultimo romanzo I Tempi Nuovi, e che naturalmente torna anche in questo come negli altri romanzi. Per esempio, quando la vecchietta dal tipo quarto piano dice ah no, ma io ho visto che scappavano sul motorino, erano i Rom, ed è, parliamo di una vecchietta che probabilmente non ci vede bene, che ha visto dal quarto piano, e lei sostiene che siano i Rom, e da qui si capisce insomma diverse allusioni che tu fai, per esempio anche alla stampa che titola la polizia ha ignorato la pista Rom. Insomma, c'è sempre un po' quella tua vena di critica sociale anche in questo romanzo. Ma sì, è un po' inevitabile, ma anche senza, come dire, che sia volutamente critica. Noi, raccontando un delitto, raccontiamo la società in cui il delitto avviene e quindi tutti quegli angoli e quelle pieghe delle vite delle persone, per cui ti posso assicurare che nel 90% delle indagini per furto d'omicidio c'è quasi sempre una vecchietta che ha visto i Rom oppure l'africano oppure insomma c'è sembra falsa pista, la cosa sopra le righe che poi la stampa riprende ossessivamente c'è sempre, è un dato oggettivo, e quindi dovendo raccontare un po' le cose in modo che siano il più possibile vicino al vero c'è anche quella cosa lì, certo. Senti, ma Monterossi si è preso solo una piccola, diciamo, relativa pausa, tornerà ad essere protagonista, coprotagonista in realtà, perché è sempre un gioco a 3, 4, 5 nei tuoi romanzi, oppure insomma pensi che la sua stagione sia un po' esaurita? No, io gli voglio molto bene, semplicemente che avendo tre o quattro personaggi, tutti un po', secondo me, protagonisti, vorrei rifuggire all'esercizio di stile, diciamo, di tenerli sempre tutti insieme. Io penso alla serialità, che è una parola che non amo, peraltro, ma penso alla serie, diciamo, i miei sette romanzi fino a qui, come una grande storia che contiene tante storie. E questa è una di quelle storie in cui Monterossi se ne sta un po' discosto, ma sicuramente lo rivedremo. Non è uno che molla, e io poi gli voglio anche un po' bene, anche però non dirlo a nessuno, perché insomma non bisogna mai essere innamorati dei propri personaggi, però io ho un rapporto di sincera amicizia col Monterossi, ecco. Anche perché lo ricordiamo, anche tu sei un autore televisivo, autore per esempio dei programmi di Crozza, quindi insomma quel mondo lì della televisione lo conosci bene, e secondo me ti togli sempre un sacco di sassolini dalla scarpa quando fai parlare il Monterossi. Sì, oddio, no, sassolini molti non ne ho, perché io poi faccio un'altra televisione, quindi insomma quella roba lì no. Sì, però ne conosco i meccanismi, ecco, diciamo, i meccanismi soprattutto psicologici, e questo mi aiuta a scriverne, e in più sì, mi diverte, perché è veramente un mondo parallelo in cui, come sa benissimo Ghezzi, la realtà è una cosa laterale, come dire, imbellettata, ecco, ne conosco i meccanismi, è flotto Flora De Pisis tornerà anche lei, credo, nel massimo del suo fulgore a Auditel. Sai che in questi giorni ho pensato molto a Flora De Pisis e credo che tu, ma anche gli ascoltatori, avranno capito a che cosa mi riferisco, perché Flora De Pisis è la conduttrice televisiva molto, diciamo, kitsch, diciamo così, che spesso compare appunto nei romanzi di Robecchi. Sì, l'ho pensata anch'io in questi giorni, però devo dire la verità che ce n'è due o tre in natura, però ecco, c'è una regina di tutto questo. Adesso io non, naturalmente non posso fare i nomi e non mettermi nei guai, però diciamo che se uno accende canale 5 alle 14:40 più o meno, insomma, poi anche di domenica, di notte, di sera, insomma, c'è sempre, quindi non è difficile individuarla. Grazie Alessandro Robecchi, ora in libreria, e lo possiamo finalmente dire, visto che le librerie riapriranno appunto martedì 14, come annunciato dal governo. Dicevamo, Alessandro Robecchi ora in libreria con I cerchi nell'acqua, pubblicato come gli altri da Sellerio. Noi facciamo una breve pausa e poi torneremo ancora a parlare di libri. Il cacciatore di libri. Tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole. E la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa. E neppure la notte ti lascia da solo, gli altri sognano se stessi e tu sogni di loro. Tutto chiede salvezza, romanzo di Daniele Mencarelli pubblicato da Mondadori. Questo è un romanzo potente, doloroso, ma nello stesso tempo pieno di vita. Racconta la storia, vera o verosimile, lo capiremo fra poco, dello stesso autore che a 20 anni subì una TSO, un trattamento sanitario obbligatorio in un reparto di psichiatria, uscendone sostanzialmente una settimana dopo con la diagnosi di depressione maggiore. Si potrebbe pensare che questo è un romanzo potente appunto perché parla di malattia mentale, perché probabilmente è una storia vera, sì, questo conta, ma secondo me questo è un romanzo potente proprio per il modo in cui è scritto. C'è una scrittura netta, pulita, asciutta, senza fronzoli, che non cede mai al pietismo, semmai, diciamo, suscita nel lettore compassione, nel senso vero del termine, ossia partecipazione alla sofferenza degli altri. Allora, Daniele Mencarelli, dicevo che questa è una storia vera o verosimile? Insomma, questa è la tua storia o hai semplicemente preso spunto da alcuni episodi della tua vita? Diciamo, io credo sinceramente che ogni autore, anche quando lavora d'invenzione, lavora in quella che viene chiamata fiction pura, in realtà poi introduca dei temi che sono cari perché li ha vissuti, perché sono temi che in qualche maniera hanno partecipato alla costruzione del suo sguardo, della sua vita. Nello specifico, io effettivamente nel 94 ho fatto una settimana di TSO. Il romanzo, rispetto alla mia, al dato biografico, è semmai una riflessione un po' più larga, diciamo così, rispetto al tema della malattia mentale, a quello che è o che non è malattia mentale rispetto alla nostra epoca. Infatti in questo romanzo ci sono molte riflessioni su che cosa sia la malattia mentale. Spesso il protagonista identifica la malattia con la ricerca di senso, cioè la sua vita è in sostanza un'infinita ricerca di senso, e nel suo caso questa ricerca di senso corrisponde alla sua stessa malattia. È così? Sì, in realtà è quel confine labilissimo tra ciò che è nella natura dell'uomo e ciò che magari invece appartiene già a un elemento patologico rispetto sempre al nostro vivere, al nostro essere. Quel confine è labilissimo, ma è un confine che tiene conto anche dell'epoca, della cultura e della civiltà che accoglie l'essere umano. Fino a 60-70 anni fa, nei nostri manicomi, e si andava in manicomio per pubblico scandalo, e lo poteva decidere da un medico a un poliziotto a un giudice, ma anche una famiglia poteva chiedere l'internamento per pubblico scandalo. Fino a 60-70 anni fa addirittura l'omosessualità era segno di malattia mentale. Io credo che oggi il terreno di scontro sia diverso, un terreno più esistenziale. Credo che un uomo che si interroga sulla propria esistenza, che percepisce il limite della propria esistenza, che sente questo limite in qualche maniera stretto rispetto a quello che sente, a quello che ama, io credo che entro certi termini non sia assolutamente un segno di una patologia, ma sia un segno benedetto di vitalità. E allora, per capire la personalità del protagonista di Daniele, il 1994, estate, lui viene ricoverato appunto in questo reparto di psichiatria e lui si descrive così: da quando sono nato non ho fatto altro che portare disordine, un'esagerazione dietro l'altra, tutto un impulso da seguire nel bene come nel male. Non so vivere in altro modo, non riesco a sfuggire a questa ferocia. Se c'è una vetta la devo raggiungere, se c'è un abisso lo devo toccare. Chi è il Daniele dei 20 anni? Ma è senz'altro un ragazzo molto simile, devo dire. Il passaggio che hai letto riassume in qualche modo la disponibilità che io ho avuto a quell'età rispetto all'esistenza, rispetto a questo scandalo meraviglioso che è l'esistenza. E devo dire poi per in verità che questa disponibilità con l'andare dell'età non si è disciplinata, ma non è venuta meno, e quindi credo che questa misura che dà Lio Narrante, il protagonista del libro e che tu hai appena letto, io credo che sia, l'ho chiamata appunto istintivamente unità di misura, credo sia un certo tipo d'approccio all'esistenza che sì è molto faticoso, ma che secondo me restituisce come premio, come risarcimento, la possibilità di vivere dentro ogni giorno una serie di elementi che permettono di investigare dentro di noi e nella realtà, ci permettono di conoscerci meglio. Venendo un attimo alla trama di questo romanzo, nel momento in cui Daniele entra nella clinica, nel reparto di psichiatria, incontra nella stanza naturalmente altre persone. C'è per esempio Alessandro, che è catatonico, che guarda un punto fisso così sul soffitto. C'è Mario, che è un ex maestro elementare, che aveva tentato di uccidere la moglie e figlia, ma in realtà è una persona di una dolcezza incredibile. C'è Giorgio, un omone che si procura dei tagli per un trauma che ha subito quando era piccolo. Poi c'è Gianluca, che è bipolare. Ecco, Daniele in questo posto assolutamente insolito trova in realtà una grandissima solidarietà e una grandissima umanità in queste persone. Sì, persone che lui accoglie, conosce in maniera appunto obbligata, come può essere convivere con 5 persone dentro una stanza d'ospedale psichiatrico sottoposte a un trattamento coatto, a un trattamento obbligatorio. Lui inizialmente li detesta per un motivo in qualche modo determinante rispetto alla sua natura. Lui non li odia tanto perché maleodorano, perché sono invadenti, perché sono pazzi, pericolosi. Lui li detesta perché sono una specie di promessa per quello che sarà la sua vita, una specie di terribile presagio per quello che lo aspetta. In realtà poi questi 5 altri pazienti psichiatrici diventeranno dei meravigliosi compagni di viaggio, perché questo ragazzo di 20 anni, Daniele, il protagonista, avrà finalmente modo di parlare con altre persone partendo dalla sua natura. Questo è un dato che a me sta molto a cuore, che è un dato che l'essere umano violenta quotidianamente, nel senso che ognuno di noi negli ambienti che frequenta, l'ambiente professionale ma anche quello domestico, anche quello familiare, non parliamo delle amicizie, spesso noi ci tradiamo un po' nel momento in cui ci rivolgiamo agli altri, nel momento in cui condividiamo qualcosa, e il protagonista del libro è un ragazzo di 20 anni che non ha mai avuto il coraggio, a parte con i medici, i genitori, la famiglia, non ha mai avuto il coraggio di tirare fuori questa sua natura, cioè la natura di un uomo che non può non cercare un senso, non può non vivere facendo della vita un grande punto interrogativo. Questi 5 pazzi saranno per lui la meravigliosa occasione finalmente di parlare senza tabù, di parlare in un modo nuovo, in un modo rispettoso di se stesso, e questo, mi permetto di dire, io non sono un medico, non un psicologo, io credo che questo sia un primo elemento fondamentale per stare bene con noi stessi, cioè quindi rivolgerci agli altri non interpretando un ruolo a seconda dell'occasione, ma costruire la nostra identità partendo da quella che è profondamente la nostra identità. Quindi lui in questa stanza con quelli che inizialmente sente come nemici, come appunto delle promesse per quello che sarà la sua vita, invece con questi cinque altri uomini avrà modo finalmente di parlare con se stesso come non ha mai fatto con nessuno. Fra le frasi che ho segnato in questo romanzo ce ne sono alcune che riguardano proprio la percezione che il protagonista ha della vita. Lui sembra essere quasi senza pelle. A un certo punto scrivi: fa che il mio sia solo uno scompenso della chimica, datemi tutta la chimica del mondo ma chiudetemi gli occhi, il cuore, perché non ce la faccio più a soffrire così per quello che vedo e che sento. E poi in un altro punto scrivi: vorrei avere una corazza, un'armatura del miglior ferro, capace di tenermi distante dalle cose. Vorrei non disperarmi per la disperazione degli altri, non sentire la madre di Giorgio come mia madre, la vita degli altri saldata alla mia con un patto di sangue. Ecco, il tuo protagonista è proprio nudo nei confronti della vita e soprattutto delle emozioni che vivono gli altri. È nudo e la cosa ancora più drammatica è che non sa se questa sua nudità, se questa sua disponibilità agli altri sia un meraviglioso dono o sia né più né meno che un sintomo di una malattia. E questo forse è proprio il cuore pulsante del romanzo. Queste due chiavi di lettura: da una parte chi fa anche della sofferenza, tu prima hai citato un sentimento meraviglioso che è quello della compassione, quindi chi fa della compassione, chi fa della partecipazione anche al dolore degli altri, chi fa di tutto questo una meravigliosa virtù e chi invece di tutto questo fa un elemento da guardare un po' in tralice, che è quasi sempre segno di appunto una nevrotizzazione, una malattia che non dovrebbe essere vissuta. E il protagonista, quando, dentro un ospedale psichiatrico sotto TSO, viene sballottato in qualche maniera da queste due posizioni che sono incarnate: una, quella più accogliente, umanista, è incarnata da Mario, dagli altri pazienti che sono poi tutti più grandi di lui, e invece la posizione un po' più severa, un po' più autoritaria, che vorrebbe negare all'uomo questa disponibilità alla sofferenza, che è ovviamente incarnata dai medici. Lui sarà sballottato nel corso di tutta questa settimana, anche perché lui è appunto il più giovane, è quello che ne sa meno della vita, di se stesso. La settimana però alla fine non darà risposte certe, darà a lui però senz'altro la consapevolezza che non si può neanche vivere, non è vita quella che vorrebbe ogni uomo, totalmente incapace, totalmente sordo e cieco alle richieste degli altri. Quindi è un po' questo il suo percorso. Grazie a Daniele Mencarelli, ora in libreria con Tutto chiede salvezza, pubblicato da Mondadori. Vi ricordo anche che questo è uno dei 12 libri candidati al premio Strega. Di chiudere, vi segnaliamo che è disponibile da qualche giorno solo in ebook Andrà tutto bene, una raccolta di 26 racconti che prendono spunto da questo periodo particolare che stiamo vivendo. L'idea è del gruppo editoriale Mauri Spagnol, che comprende case editrici come Longanesi, Garzanti, Guanda, e che ha invitato alcuni scrittori a raccontare appunto questo momento. Andrà tutto bene, gli scrittori al tempo della quarantena, è disponibile in ebook su tutti gli store online a 9,99 euro. E l'intero incasso, sottolineiamo l'intero incasso, sarà devoluto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Fra gli autori Stefania Auci, Donato Carrisi, Alessia Gazzola, Andrea Vitali, Ilaria Tuti e Clara Sanchez. Un modo dunque per leggere le riflessioni di questi autori, i loro spunti, i loro racconti e fare anche del bene.